Fatto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La disoccupazione resta ai massimi dal 77, cresce ancora quella giovanile, metà dei senza lavoro è in cerca di un posto da oltre un anno e aumenta il numero di scoraggiati, sono quasi 2 milioni. Galliani lascia il Milan. Barbara Berlusconi ha offeso la mia reputazione. Va bene il ricambio generazionale, ma va fatto con eleganza. Circa 10 milioni di proprietari rischiano di pagare una parte dell'IMU 2013 sulla prima casa, calcola Il Sole 24 Ore. I sindaci protestano contro il governo. Gravi indizi che abbia pagato testimoni. Nelle motivazioni della sentenza Ruby, i giudici scrivono che Berlusconi andrebbe indagato per corruzione in atti giudiziari. Letta conferma, ci sarà un passaggio parlamentare per la nuova maggioranza, chiederò la fiducia dopo le primarie del PD, ci sarà anche una messa a punto del programma. Ucraina, il no di Yanukovych all'Europa scatena la piazza, ieri proteste in tutto il paese, una decisione figlia del clima di sospetto tra Bruxelles e Mosca, dice il nostro presidente del Consiglio. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare questa puntata potete scrivermi su Twitter, Simone Spezia, oppure con l'hashtag Effetto Giorno. Noi parleremo tra un attimo di disoccupazione, ma prima facciamo il punto sulla notizia degli ultimi minuti, è quella che riguarda Adriano Galliani, che ha deciso di dimettersi dal Milan e ha deciso di farlo con un certo rumore. Carlo Genta, buongiorno, tra l'altro in diretta dal Forum Agenti, dal quale stiamo trasmettendo molto delle nostre trasmissioni, oggi andrà in onda anche tutti i convocati. Carlo, buongiorno, eccoci. Ciao Simone, probabilmente non c'era posto più curioso per dare questa notizia, no? Perché c'è un disoccupato illustre in più, appunto Adriano Galliani, che se n'è andato dal Milan sbattendo la porta, hai detto bene, grave danno alla reputazione, le critiche di Barbara Berlusconi lo hanno ferito, lo hanno offeso, si parlava di una buona uscita, oggi si legge su tutti i giornali Galliani dagli 8 giorni al Milan, invece no, gli ha dato 8 ore al Milan, poi ha alzato il telefono, ha chiamato l'ANSA e ha detto me ne vado, da probabilmente dimissioni ufficiali dopo la partita con l'Ajax, che è un passaggio cruciale per il Milan, serve un punto per la qualificazione alla fase successiva di Champions League, insomma rivoluzione a Milano. Tra l'altro oggi è arrivato anche Toir e domenica debutterà da presidente a San Siro, due storie molto diverse, ma curiosamente i tempi coincidono, Simone. Grazie Carlo, e naturalmente ritornerete a parlare, immagino gli ascoltatori si scateneranno in tutti i convocati dopo le due. Ora noi parliamo di economia, parliamo di disoccupazione, di quella vera, perché ci sono i dati diffusi oggi dall'Istat, livelli che restano molto alti, impressiona il numero di scoraggiati. Il dato resta ai massimi, ma stabile, il che vuol dire che tra settembre e ottobre non c'è stata variazione. Tanto basta per far dire al ministro Giovannini che si può sperare, perché il dato va letto sempre tenendo conto della congiuntura, e la congiuntura è ancora molto difficile. Ma restando uguale la disoccupazione, è plausibile ipotizzare che l'occupazione comincerà a crescere. Potrebbe anche aver ragione il titolare del welfare, nel frattempo però il 12,5% continua a impressionare. Se non fosse che poi arriva lo sconcerto a leggere il tasso di disoccupazione giovanile, 41,2%. Qui la crescita c'è stata, quasi un punto e mezzo in più. La fascia è sempre quella tra i 15 e i 24 anni e il dato non vuol dire che 41 giovani su 100 siano disoccupati, perché molti sono studenti a tempo pieno. Ma rispetto al 1.600.000 ragazzi che lavorano, oltre 600.000 non riescono a trovare un impiego. Nell'eurozona va leggermente meglio, di un soffio, meno 0,1% ottobre su settembre. L'entusiasmo però si spegne subito sui giovani, record storico della disoccupazione al 24,4%. Un anno fa era quasi un punto in meno. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questi i dati sulla disoccupazione, ma gli italiani sono alle prese anche con altre questioni, sono quelle che riguardano l'IMU. Come sentivate dai titoli, è quello di cui parla anche il Sole 24 Ore oggi in edicola, ci sono 10 milioni di proprietari che rischiano di pagarla, quest'IMU 2013 che doveva essere cancellata. Ne abbiamo già accennato ieri, una questione che riguarda i comuni. Abbiamo in diretta qua in studio con noi Gianni Trovati, che insomma tra lui e Cristiano Dell'Oste sono le due persone che ci accompagnano sempre su questi temi. Allora Gianni, qual è la situazione? La situazione è che a quanto pare, nel senso che il testo del decreto approvato l'altro giorno dal Consiglio dei Ministri e ancora non ha visto la luce. I proprietari che abitano nei comuni che non hanno più l'aliquota standard del 4 per 1000 perché l'hanno alzata quest'anno o l'anno prossimo, dovranno pagare una quota della differenza, cioè una quota dell'imposta in più prodotta dagli aumenti di aliquota. In pratica, la complicata ricerca delle coperture finanziarie per abolire anche la seconda rata dell'IMU non ha permesso, a meno di sorprese improbabili dell'ultima ora, di trovare appunto le coperture necessarie a coprire tutta la seconda rata, comprensiva degli effetti degli aumenti comunali. Per cui gli effetti di questi aumenti, cioè questi aumenti d'imposta, verranno pagati in parte dallo Stato, a quanto pare il 60%, e in parte però dai proprietari di abitazione principale, appunto il restante 40%. La cosa dovrebbe riguardare sia i comuni che hanno aumentato nel 2013, sia quelli che hanno aumentato nel 2012, cioè sarebbe spalmata un po' su tutti i comuni che hanno ritoccato l'aliquota standard, e quindi si tratterebbe di oltre 2500 comuni, a quanto pare, tra cui ci sono tutte le grandi città, quindi gli italiani sono molti, perché c'è Milano, c'è Roma, c'è Torino, c'è Genova, c'è Napoli, insomma tutte le grandi. Tutte le grandi città. Allora, domani tra l'altro sul Sole 24 Ore ci sarà la mappa completa, se non sbaglio Gianni, no? Di tutte le città colpite da questo fatto e da questa vicenda, e c'è tra l'altro il sospetto che alcuni sindaci su questo ci abbiano giocato e fatto i furbi. Ne parleremo tra poco col sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo. Grazie a Gianni Trovati. Noi parliamo adesso del caso Ruby, perché ci sono nuovi dettagli, arrivano dalle motivazioni della sentenza, e la nostra Raffaella Calandra ce le racconta. Raffaella. Sì, buongiorno. Con il deposito di queste motivazioni parte anche ufficialmente l'inchiesta Ruby Ter e l'accusa di corruzione in atti giudiziari per Silvio Berlusconi, per i suoi storici avvocati e per molte ragazze ospiti di Arcore si avvicina. L'ex premier, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza con cui hanno condannato Emilio Fedele, Le More e Nicole Minetti per induzione e favoreggiamento della prostituzione, è gravemente indiziato del reato perché elargiva denaro alle ragazze testimoni. È per questo è per i 2500 euro mensili ricevuti a partire dal gennaio 2011 che secondo la Corte la versione dei fatti delle ospiti di Arcore in aula si ripeteva sempre uguale come una fotocopia, anche in espressioni di cui si legge talvolta non sapevano riferire il significato. Così le cene erano sempre conviviali, il bunga bunga non esisteva e comune era lo sconcerto alle domande su eventuali incontri sessuali. Indizi dell'esistenza di un copione o comunque, scrive la Corte, di direttive a cui attenersi, ma la forza della verità, nota, ogni tanto emerge comunque in dettagli e contraddizione. È per tutto questo che gli atti vengono ora mandati in procura perché i PM indaghino, aprendo così ufficialmente il terzo fascicolo intorno alle feste di Villa San Martino, a carico sia di Berlusconi che di Ghedini e Longo, ma pure di alcuni testimoni e della stessa Ruby e del suo ex difensore, a cui potrebbe essere contestata pure la rivelazione di segreto. E però è tutto. Grazie Raffaella Calandra, e noi passiamo a parlare di altre inchieste. Entriamo nel mare magnum delle inchieste che riguardano i rimborsi dei consiglieri regionali, e c'è un caso del quale si sta parlando in queste ore, del quale si sta discutendo molto, è quello che riguarda la regione Piemonte. Perché? Perché è coinvolto anche il presidente Roberto Cota. Dunque facciamo il punto con Filomena Greco. Filomena, buongiorno. Sì Simone, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Sì, è così, resta alta insomma l'attenzione proprio intorno alla regione Piemonte all'indomani della chiusura delle indagini da parte della Procura di Torino sui rimborsi per le spese destinate al funzionamento dei gruppi consigliari, rimborsi dentro i quali è finito davvero un po' di tutto, da regali di nozze a spese per vini, cibo, viaggi, libri, caffè, ristoranti, insomma resta alta l'attenzione sia per le ricadute giudiziarie di queste inchieste, che ha dei numeri importanti, lo ricordiamo, 43 dei 54 consiglieri, tra loro come dicevi tu lo stesso Cota e l'ex presidente della regione Piemonte Mercedes Bresso, hanno ricevuto un avviso di garanzia per peculato, un reato punito con una pena fra i 3 e i 10 anni, accanto anche a 4 casi di truffa e di finanziamenti illeciti ai partiti, sia per le possibili ricadute politiche a carico della giunta guidata da Roberto Cota, che rientrerà nel frattempo domani dal Giappone. Il punto è proprio se la maggioranza che fa capo a Cota resisterà, oppure se, come serpeggia in alcuni ambienti della lei e della nuova destra, su cui poi di fatto pesano anche le divisioni emerse a livello nazionale nei gruppi dirigenti, qualcuno deciderà di mollare e unirsi al coro di chi, da parte dell'opposizione, invoca invece le dimissioni di massa per porre fine alla legislatura, un po' sul modello di quanto accaduto alla Lombardia di Formigoni. Ieri i consiglieri del PD si sono dimessi dalle cariche istituzionali in consiglio e nelle commissioni, a febbraio invece arriveranno le dimissioni dalla carica di consiglieri. Linea allo studio. Grazie Filomena Greco per questi aggiornamenti, e noi passiamo adesso alla politica vera e propria, quello che sta succedendo in queste ore, dopo l'uscita soprattutto di Forza Italia dalla maggioranza e naturalmente dopo la decadenza di Silvio Berlusconi. Oggi torna a parlare il Presidente del Consiglio Enrico Letta, torna a parlare dall'Ucraina. Allora, sulle vicende dell'Ucraina torneremo tra un attimo, intanto vediamo di fare il punto sulla maggioranza. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Dopo lo strappo di Forza Italia, il Premier Enrico Letta parla della nuova maggioranza. Lunedì intanto salirà al Quirinale dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano, proporrà il passaggio alle Camere per la fiducia, ma dopo le primarie del PD, quindi sarà una verifica anche per lui all'interno del suo stesso partito. Ma Letta dice: non chiamiamola verifica, una brutta parola, fiducia, chiamiamola fiducia. Faremo il punto sulla nuova agenda per tutto il 2014. Riguardo alle sue possibilità dimissioni, ne discuterà con il Presidente della Repubblica. Per Letta comunque si chiudono mesi difficili, quelle delle larghe intese. A questo proposito sentiamo quanto ha detto. Questa individuazione di un'agenda 2014 ci consentirà di giocare in attacco sul 2014, dopo che appunto il 2013, per motivi evidenti, l'abbiamo giocato in una logica un po' catenacciara, che però era assolutamente obbligata, visto l'assedio e le montagne russe, ecco, con le quali abbiamo vissuto in questi mesi. Adesso spero di essere sceso dalle montagne russe. Le dimissioni dei sottosegretari di Forza Italia stanno arrivando con il contagocce, dice Letta. Per ora si registrano quelle di Gianfranco Miccichè, decideremo poi le sostituzioni, ma è importante però che le riforme vengano fatte anche con il partito di Berlusconi, perché c'è bisogno di un'ampia maggioranza. E per ora qui da Roma è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Sì, tutto da Roma, dalle tue parti, perché in realtà noi restiamo a Roma con la nostra Alessandra Schepisi, che ci racconta un appuntamento che riguarda l'opposizione, perché domenica ci sarà il nuovo V-Day organizzato dal Movimento 5 Stelle. Due certezze finora per il terzo V-Day in programma domenica a Genova. Beppe Grillo scalderà il palco a partire dalle 14, mentre i parlamentari grillini resteranno giù tra i cittadini e non saranno al fianco del leader ad arringare la piazza. L'obiettivo degli organizzatori, infatti, è quello di andare oltre la politica, oltre come il titolo di questo terzo V-Day che segue il Vaffa-Day di Bologna del 2007 e di Torino del 2008. Insieme a Grillo dovrebbe esserci il cofondatore del movimento, Gianroberto Casaleggio, per la sua seconda volta sul palco. Unico precedente fu la piazza di San Giovanni per l'ultima tappa dello tsunami, e il premio Nobel Dario Fo. Previsti anche ospiti internazionali sui quali vige ancora il riserbo per dare l'idea che si va anche oltre confine. È la prima volta invece che un V-Day si tiene a Genova e la prima con il Movimento 5 Stelle in Parlamento. Di fatto un evento che dà il via alla campagna per le europee dell'anno prossimo, che dovrà quindi rilanciare l'entusiasmo verso Beppe Grillo dopo i risultati deludenti delle regionali degli ultimi mesi e dare una dimensione continentale al movimento. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vi abbiamo detto che vi avremmo parlato naturalmente della situazione dell'Ucraina, dove si sono svolti colloqui con l'Unione Europea, ma appunto Yanukovych ha detto no all'accordo. Ci sono state proteste in tutto il paese, dunque sentiamo un racconto. Alla fine il presidente ucraino Yanukovych non ha firmato l'accordo di associazione alla UE, ma questo no all'Europa è una scelta sua, non dell'Ucraina. L'Ucraina continuerà la sua marcia di avvicinamento, trascinata da una realtà che vede le sue regioni e le sue imprese fisicamente a fianco di altre regioni e imprese all'interno dell'Europa. Dicono sì all'Europa le migliaia di persone che sventolano le bandiere della UE protestando nelle piazze contro la decisione del governo, non solo a Kiev ma anche nelle città dell'est più vicine alla Russia. L'accordo di Vilnius avrebbe accelerato l'integrazione, avrebbe avvicinato le menti e le regole, avrebbe aiutato chi fa affari con l'Europa e messo in difficoltà chi non è pronto alla concorrenza con l'Europa. Yanukovych non ha pensato ai grandi ideali, ma ai conti dell'economia, che è in grande difficoltà e a cui la Russia di Vladimir Putin offre il pronto soccorso degli sconti sul gas e altro. In un mondo ideale le cose andrebbero come ha osservato il Presidente del Consiglio Enrico Letta. Un paese come l'Ucraina, ha detto, per la sua storia ha bisogno di entrambi i mondi, l'Europa e la Russia. Non dovrebbe essere posto davanti a un'alternativa drastica. In ogni caso, ora Yanukovych ha chiarito il suo punto di vista. Nel 2015 si ripresenterà al voto degli elettori ucraini. Spetta a loro giudicarlo. Antonella Scotto, Radio 24, Sole 24 Ore. A 3 settimane dal ciclone che ha investito le Filippine, facciamo un punto. Questi sono i momenti in cui un giornalista radiofonico invidia il collega televisivo, perché in radio non è possibile far vedere le immagini dall'alto delle Filippine, dove a quasi 3 settimane dal ciclone Haiyan è ben visibile la devastazione prodotta nel paese. Campi inondati d'acqua, dove non esiste più una coltivazione, case distrutte, macerie. In casa Kalim, in un villaggio vicino a Tacloban, il tifone ha spazzato via tutto. Non c'è più nulla se non fango, come spiega da Manila Annie Kalim. È tutto distrutto, in quel villaggio lì, dove è lontano dalla città, non so se arriverà, se non si mettono a lavorare quel governo locale, non riescono mai a fare niente, infatti tanti stanno facendo da soli. I dati ufficiali del governo parlano di 5.500 vittime, i feriti sono oltre 26.000, ancora migliaia i dispersi, e gli esperti dell'ONU arrivano ad affermare che la completa ricostruzione potrebbe durare 10 anni e costare oltre 5 miliardi di euro. Oltre 4 milioni gli sfollati, che fanno fatica a reperire cibo, benzina, acqua pulita. La FAO ha chiesto 11 milioni di dollari extra per aiutare gli agricoltori delle Filippine a ripulire la terra. Annie Kalim sta per tornare in Italia per riprendere il suo lavoro da badante. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La viabilità, ci ritroviamo tra un attimo e torniamo a parlare di IMU. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Disoccupazione ancora ai massimi dal 77, cresce ancora quella giovanile, aumenta il numero di scoraggiati, sono quasi 2 milioni. Galliani lascia il Milan sbattendo la porta. È stata offesa la mia reputazione, dice, va bene il ricambio generazionale, ma va fatto con eleganza. Gravi indizi che abbia pagato testimoni. Nelle motivazioni della sentenza Rubi, i giudici scrivono che Berlusconi andrebbe indagato per corruzione in atti giudiziari. Letta conferma, ci sarà un passaggio parlamentare per la nuova maggioranza, chiederò la fiducia dopo le primarie del PD. Ci sarà anche una messa a punto del programma. È stato confermato poco fa lo sciopero nazionale di 4 ore nel trasporto pubblico locale del 16 dicembre. Nell'incontro al Ministero del Lavoro è stato giudicato dalle organizzazioni sindacali inadeguato per lo sblocco della trattativa contrattuale. E noi torniamo alle vicende dell'IMU e non solo. Saluto Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ci spiega una cosa, perché da un tweet che è stato poi riportato anche oggi dal Sole 24 Ore, lei sembra dire che ci sono un po' di suoi colleghi che hanno fatto i furbi, ossia aspettando che il governo prendesse una decisione sull'IMU, hanno deciso di portare l'aliquota al livello massimo in maniera da poter poi battere cassa col governo o lamentarsi col governo perché non ha fornito abbastanza fondi. Beh, diciamo che nelle ore che stiamo vivendo di grande incertezza, dove al primo posto indubbiamente ci stanno le responsabilità del governo, che non può dirci a fine novembre quali sono le condizioni entro cui fare i bilanci, è paradossale, non ci sono nemmeno più parole per esprimere un disagio che viviamo noi sindaci nel poter fare, anzi nel non poter fare una programmazione sui territori. Ci sta anche, perché io interpreto il ruolo di vicepresidente cercando sempre di avere un occhio, e in questi tempi secondo me è doveroso, a una responsabilità che innanzitutto deve guardare dentro se stessi, che in alcuni casi, alcuni che poi vanno presi puntualmente e analizzati, qualcuno in una zona di grigio in cui si diceva che sarebbe stato rimborsato l'IMU sulla prima casa e dall'altra parte si teneva una scadenza piuttosto incerta e al di là del tempo, qualcuno ha pensato di mettere l'aliquota al massimo, così poteva capitalizzare al massimo il rimborso. Qualcuno ci ha marciato, sindaco, quindi? Ma marciato, insomma, adesso io conosco alcune situazioni dove possono anche essere state legittimate, perché nel frattempo anche fondi di solidarietà, ovvero dei trasferimenti che lo Stato dà, sono mutati e quindi è stato anche gioco forza una esigenza. Altre volte invece insomma è stato particolarmente comodo. Anch'io quando è stato in assestamento di bilancio quei 10 giorni fa potevo fare questa manovra e poi lamentarmi perché non avevo avuto i denari. Però sinceramente non l'ho fatto. Ma ci fa qualche nome? Per esempio Milano ci ha marciato, secondo lei? No, io Milano non lo conosco il caso da vicino, non so la situazione di Milano, tra l'altro le città metropolitane sono in particolare sofferenza e quindi non so dire nello specifico, non mi permetto di entrare. Io da vicepresidente devo guardare i numeri nel loro complesso, e i numeri nel loro complesso dicono che a fronte di numerosi aumenti dell'aliquota che è stata mandata al massimo al 6, le coperture alla fine sono saltate. E se è vero, ribadisco che al primo posto ci stanno le responsabilità del governo, per essere credibili, e visto che io voglio riformare questo paese, non devo difendere per forza una categoria, non voglio fare sindacalista dei sindaci, io voglio riformare questo paese iniziando dal mio comparto, e quindi ho detto che evidentemente, guardando i numeri nel loro complesso, c'è stata una deriva nell'ultimo periodo di aliquote che si sono alzate e che hanno portato evidentemente a una copertura che è saltata. E poi ci diceva appunto dall'altro lato le responsabilità del governo, l'aver chiuso così tardi questa partita dell'IMU che vi ha lasciato, e ne abbiamo parlato, anche l'altro giorno con Castelli, con insomma, quello che da voi all'ANCI alla delega per la finanza, che vi ha lasciato nelle condizioni di chiudere i bilanci tardissimo. Guarda, io ho avuto la fortuna di lavorare in azienda prima di fare il sindaco e non ho mai visto dei bilanci di previsione che si fanno a novembre, al massimo si fanno a dicembre dell'anno prima i bilanci di previsione. Qua noi arriviamo a dover fare i bilanci di previsione a novembre e questo è inaccettabile. Non è possibile lavorare in queste condizioni, avendo peraltro sempre la scure dei tagli sulla testa e dovendoci poi mettere la faccia noi in prima persona nei confronti dei nostri cittadini per chiedere le tasse. La misura è colma, tutti i sindaci, indipendentemente dal colore, dall'appartenenza e dalla regione geografica, sono esasperati. E noi abbiamo chiesto nuovamente un incontro al Premier Letta per risolvere la situazione. Ultima domanda che le faccio, in realtà una domanda politica. Mi spiega qual è adesso la sua collocazione? Perché lei era uno dei formatanzi, era a capo dei cosiddetti formattatori del PDL. È passato col nuovo centrodestra? Io sono rimasto fermo, ho cercato fino all'ultimo momento di invitare all'unità, perché la parcellizzazione secondo me rimane una sconfitta. Il bipolarismo è forse l'eredità più positiva che è la Seconda Repubblica. No, non mi ci giri attorno, Cattaneo. No, io sono rimasto in Forza Italia, ma l'esigenza di rilanciare e innovare è trasversale, è in Forza Italia, è nel nuovo centrodestra, è nell'area politica che rappresento, e quindi la battaglia continua ad andare avanti, non è che si risolvono le cose semplicemente cambiando un nome o viceversa, avendo qualche specchietto per le allodole in più. La battaglia del rinnovamento, mi sembra che lo vediamo da tutte le parti, è una battaglia che prosegue, per fortuna qualcosa sta accadendo nel paese, ma è ancora lontana dall'essere veramente strutturalmente avviata. Grazie Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia, per essere stato con noi. Buona grazie giornata. Grazie. E se c'è qualcosa che non cambia nel paese, per rimanere su quello che ci diceva Cattaneo, è la legge elettorale. Roberto Giachetti, come va? Buongiorno, va abbastanza bene. Deputato del Partito Democratico, a che giorno siamo di sciopero della fame? 54. 54. Chi li persi? Ma guardi, 11 abbondanti, diciamo. 11 chili abbondanti. Senta una cosa, domenica c'è una giornata di digiuno collettivo, no? In solidarietà a lei. Sì, sono contento. Diciamo che da quando è iniziato lo sciopero della fame, in realtà non si è mai fermata la staffetta che mi accompagna di volta in volta con persone diverse, e voi siete stati molto gentili a ascoltare le voci di tante persone che mi sono state accanto, e questo è molto importante. Domenica è atteso che, come sapete, lunedì dovrebbe di nuovo riunirsi la commissione, presumo per rinviare ancora e quindi consegnarci definitivamente alla Corte Costituzionale, però facciamo questa iniziativa a Roma e c'è una giornata di digiuno collettiva che è stata lanciata, dove credo che siano già centinaia le persone che hanno aderito, ed è un fatto molto importante a testimonianza del fatto che ovviamente questa non è una mia iniziativa isolata, ma è un'iniziativa molto sentita nel paese. Dopo la Corte Costituzionale la smette col digiuno oppure no? No, io smetto col digiuno quando o il Senato fa la legge o, come auspico, la riforma passa alla Camera, dove ci sono i numeri e le condizioni politiche per fare effettivamente una legge. Ha idea di quanto può durare tutto questo? Un'eternità? No, io non mi pongo questo interrogativo, perché se faccio questa iniziativa è perché penso che si debba fare presto e subito, e quindi diciamo sono più concentrato sul organizzare la lotta piuttosto che a pensare a quanto tempo ci vorrà. La sua salute è a rischio adesso? Beh, insomma, la mia salute non è a rischio drammatico, ma ovviamente dopo 54 giorni si è un po' più provati di quando ci siamo sentiti le prime volte. Naturalmente. Come andrà a finire? Perché già ci aveva fatto una previsione l'altra volta. Io purtroppo non la sento più. Eccoci qua. Come andrà a finire? Perché già ci aveva fatto in 10 secondi una previsione l'altra volta molto pessimistica. Rimane di quell'idea? Assolutamente sì, se no andrei avanti con questa iniziativa, però sono convinto che alla fine la spunteremo. Grazie Roberto Giachetti. Grazie, deputato del Partito Democratico, buona grazie. Giornata, in bocca al lupo naturalmente, grazie. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, ci sarà l'inchiesta di Daniele Biacchessi e poi, come abbiamo deciso di fare praticamente ogni giorno, sentiremo un sindaco delle località della Sardegna colpite dall'alluvione. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Letta dice: sarò in aula per la fiducia dopo le primarie del PD, ci sarà anche una messa a punto del programma, dopo il voto giocheremo in attacco. Galliani lascia il Milan, offesa la mia reputazione, ricambio generazionale ma fatto con eleganza, dice. 10 milioni di proprietari rischiano di pagare una parte dell'IMU 2013 sulla prima casa, calcola il Sole 24 Ore. Disoccupazione ancora ai massimi dal 77, aumenta il numero di scoraggiati, sono quasi 2 milioni. Gravi indizi che abbia pagato i testimoni, nelle motivazioni della sentenza Rubi i giudici scrivono che Berlusconi andrebbe indagato per corruzione in atti giudiziari. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, dedicata in questo venerdì alla sicurezza. Forze dell'ordine non riescono più a garantire il servizio di sicurezza nel nostro paese, o meglio, riescono a farlo a stento, in condizioni difficili, con un organico che ha dovuto fare i conti con numerosi e ripetuti tagli avvenuti negli ultimi anni da parte di tutti i governi, politici e tecnici. E tutto ciò è avvenuto mentre in periodi di crisi economica aumentano a dismisura delitti e reati. Il capo della polizia, Alessandro Pansa, ha denunciato pochi giorni fa 15.000 agenti in meno nel controllo del territorio, e il suo allarme, a nostro avviso, non può e non deve essere sottovalutato. In questo periodo ogni tanto vengo richiesto di aumentare il livello di sicurezza in alcune città, in alcune parti del territorio. E ho chiarito e chiarisco a tutti che noi oggi siamo in grado di poter ridurre la quantità di sicurezza limitatamente. Non siamo in grado di accrescere la sicurezza da nessuna parte sul territorio. Siamo in grado di ridurla un po' in meno o un po' in più, perché non è pensabile che con 15.000 poliziotti in meno, altrettanti carabinieri e migliaia di finanzieri in meno, con una riduzione di risorse, noi possiamo offrire lo stesso servizio di sicurezza che offriamo al cittadino che offrivamo qualche anno fa. Quindi è pacifico che in questo momento noi diamo un servizio sicurezza inferiore al passato, e che questo servizio di sicurezza cerchiamo attraverso meccanismi di ottimizzazione delle risorse, di efficientamento della macchina organizzativa per renderlo meno basso. Dal 2014 ci saranno solamente 94.000 uomini schierati contro le varie emergenze, non più 110.000 come prima. I dati sono incontrovertibili. Quasi 270 milioni di euro in meno al comparto sicurezza solo nella finanziaria 2010 rispetto ai fondi stanziati nel 2009. E questa cura dimagrante è andata avanti fino all'ultima legge di stabilità appena varata dal governo Letta. Anche per il 2014 lo stipendio delle forze di polizia rimarrà congelato. I tagli degli straordinari saranno del 5%. Proseguirà la limitazione al turnover con la conseguenza tendenza di avere poliziotti e carabinieri mediamente sempre più anziani. Quando poi si scende nel territorio gli effetti sono devastanti. Ad esempio a Genova nel 2014 ci saranno 400 agenti in meno. A Milano i poliziotti lavorano in questi giorni senza batterie nelle radio e con volanti dimezzati rispetto a quelli in strada negli anni 90. Ma il ragionamento dei vertici della polizia riguarda soprattutto i poteri di controllo del territorio. Cosa vuol dire? I tagli penalizzano il comparto della sicurezza a favore di quello della difesa, impegnato da anni nelle cosiddette pattuglie miste e in compiti di presidio di obiettivi a rischio nelle città più importanti. Ora, secondo la polizia, bisogna chiarire chi ha la legittimità dell'uso della forza nell'ambito della sicurezza, perché se l'asse si sposta verso il sistema militare, possono verificarsi scompensi anche rispetto ai principi scritti nella nostra Costituzione. Ed ecco qua, così l'inchiesta di Daniele Biacchessi sulla sicurezza. Noi adesso torniamo in Sardegna. Pietro Paolo Piras, sindaco di Terralba, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Com'è la situazione in paese da voi? La situazione è rientrata nella normalità, sempre tra virgolette, per quanto riguarda l'emergenza sfollati, per quanto riguarda l'apertura delle scuole, non ci sono più problemi di questo genere. Restano i danni, quello sì, e poi resta il problema delle opere da fare per evitare che possano ripetersi in futuro. A proposito di opere da fare, sindaco, abbiamo letto che di fatto c'è un intero quartiere, non ho capito bene se è la via principale del paese, che è costruita su quello che era l'alveo di un fiume? Sì, questo è vero, ci sono due strade, tre o quattro strade anzi molto importanti, che sono costruite sull'antico letto del fiume, ma se lei dice di aver letto un articolo, l'ho letto con molta attenzione, ci sono molte inesattezze che se vuole potremmo trattare. Ma non sono a rischio quelle strade, a me interessa questo, cioè a me al di là delle smentite agli articoli mi interessa capire se ci sono dei rischi dal fatto che questi quartieri siano costruiti su quello che era l'alveo di un fiume se questo fiume ha deciso di rientrare nel suo alveo originario, insomma, ecco. Diciamo questo, che il fiume è stato deviato 90 anni fa da un'imponente opera di bonifica che ha chiuso con argini quel fiume. Quello che è successo è che uno dei canali che portano acqua a quel fiume è stato esondato, l'acqua è finita nelle campagne e poi dalle campagne si è riversata nel fiume. Questo pericolo c'è, è reale e deve essere mitigato con opere di mitigazione. Quello che assolutamente non è vero è che c'è un fiume che scorre in qualche tubazione lungo il paese. Ultima domanda che le voglio fare, Piras. Ieri abbiamo avuto il sindaco di Fonni che ha detto non mi interessa niente, mi ribello, sforo sul patto di stabilità perché devo rimettere a posto le cose. Lo farà anche lei? Allora, per quanto riguarda il patto di stabilità, in passato, l'anno scorso, è successo che abbiamo dovuto lottare alla grande su questa questione. Ora come ora pensiamo noi come paese di riuscire a cavarcelo ugualmente, anche perché contiamo sul fatto che lo Stato emetta delle norme che ci consentano di fare queste opere a prescindere dal patto di stabilità, perché è chiaro che se le norme restano così come sono, è inutile che ci diano soldi che non possiamo spendere. Ma ripeto, nel caso le norme non arrivassero, comunque siete pronti a sfondare da quel punto di vista. Oppure a portare le chiavi al prefetto, che è un po' la stessa cosa, perché sarà impossibile e sarebbe davvero una beffa. È come una persona che sta morendo di fame, mettergli un piatto di pasta asciutta, però una catena al collo che lo tenga a distanza di mezzo metro dal piatto di pasta asciutta. Io ricordo che anticamente si racconta nei miti che una persona era fatta così, la facevano morire di fame di fronte a un piatto. Quindi la norma che volete è una norma che vi permetta di appunto di sforare dagli impegni di bilancio, per almeno da quegli impegni di bilancio, per poter fare quelle opere. Sì, più precisamente di spendere i soldi che ci daranno a prescindere dalle norme del patto di stabilità, quindi derogando per quei fondi dal vincolo che dice non potete spendere i fondi che avete. Non avrebbe senso. Grazie Piras, buona giornata. Grazie e buon lavoro naturalmente. La viabilità e poi ci ritroviamo con Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di America 24 e di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta America, America, shed his grace on thee. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Men attribute their success to themselves and women attribute it to other external factors. Ho parlato di donne la settimana scorsa alle Nazioni Unite, c'è stata la giornata dedicata a tutto quello che si può fare per eliminare o contenere la violenza contro le donne. Oggi parliamo di diritti delle donne. Vi ho fatto ascoltare Sheryl Sandberg, che è il capo operativo di Facebook, una donna in carriera, e in che carriera, una donna giovane con due figli, che ha fatto sensazione in America perché ha scritto un libro molto importante, Lean In, Women Work and the Will to Lead. In italiano vuol dire facciamoci avanti, le donne e la voglia di riuscire. La Sandberg ha fatto scalpore perché ha cercato di avere un atteggiamento molto realista. Ha detto qua, se gli uomini fanno più strada in carriera è anche un po' colpa delle donne. Non cerchiamo di trovare delle scuse come donne. La meritocrazia in America funziona. Se qualcuno vuole davvero buttarsi in carriera può farcela. La Sandberg è stata allieva di Larry Summers, ha studiato ad Harvard, ha un master in business administration, ha lavorato anche alla Banca Mondiale, ha lavorato al Dipartimento al Tesoro proprio con Larry Sandberg. E come si fa ad arrivare così in alto? Dà tre comandamenti essenziali. Dice, primo, siediti al tavolo, perché le donne sottovalutano sempre le proprie capacità, finiscono per farsi sfuggire l'ufficio d'angolo, cioè l'ufficio del capo. Fai in modo, punto 2, che il tuo partner sia un vero partner, non una meteora nella vita domestica. Numero 3, non andartene prima di andartene davvero. Secondo la Sandberg, la donna media inizia a mollare quando comincia a progettare di avere un figlio. Invece, secondo lei, è possibile fare tutto ed è possibile farlo bene. Perché vi ho parlato della Sandberg? Perché un paio di giorni fa si è parlato di donne in Italia con un personaggio di eccezione, Lella Golfo. Lella Golfo, ex parlamentare, la presidente della Fondazione Belisario, e soprattutto è stata la donna che in Parlamento ha portato in avanti la legge per le quote rosa. Devo dire, l'ho conosciuta, abbiamo parlato a lungo, una donna piena di passione con questo grande senso della missione, perché la verità è che in Italia rispetto all'America siamo indietro, e dunque se attorno alle quote rosa ci sono state molte polemiche, credo che stanno ottenendo quello che volevano proporsi di raggiungere. Ma quello che mi ha colpito in questo dibattito è stato così un dibattito fra donne, dove delle donne italiane, Maria Francesca Carli, che è managing director di JP Morgan, super in carriera, Elisabetta Bortoloni, headhunter con Heinrich Struggle, qui da 17 anni, sono due donne italiane che hanno fatto grande carriera in America e che dunque hanno parlato, dialogato con Lella Golfo. Con la mia legge siamo arrivati adesso in Italia al 17,2%, di donne nel board e siamo partiti e avevamo solo un 5%, e in America siamo al 14%. E sentiamo la risposta di Maria Francesca Carli, Managing Director di JP Morgan. Secondo me c'è una questione di best practice, e negli Stati Uniti sia le università, infatti MIT o sia diverse corporate, cercano effettivamente di aumentare la diversity, che può essere donne o non donne, e però lo fanno in modo che non è regolamentato. Sentiamo ora Elisabetta Bortoloni, headhunter con Hendrick Struggles. Le donne sono over mentored and under sponsored. Cosa significa? Il mentor è una persona che può essere anche esterna alla società, che aiuta la donna a far meglio il proprio lavoro. Lo sponsor è la persona che si prende la responsabilità di far salire quella, in questo caso la donna, nei vari livelli più alti. E questo è diverso, non è semplice. Gli uomini tendono ad avere molto più sponsors che le donne. E sentiamo Ilaria Costa, presidente della IACE, organizzazione che promuove la lingua e la cultura italiana negli Stati Uniti, che devo dire ha avanzato un punto molto interessante sull'importanza dell'educazione. L'importante è andare proprio alla base, cioè alle scuole elementari, alle scuole secondarie, perché altrimenti è troppo tardi, abbiamo già perso la battaglia. Quando arriviamo al mercato del lavoro già siamo troppo grandi. C'erano anche due uomini, Luigi Gubitosi, direttore generale della RAI, Stefano Lucchini, presidente di Eniusa. Entrambi hanno molto apprezzato l'azione della Golfo, e Gubitosi dice: beh, se c'è un posto dove ormai i tabù o le differenze fra i sessi sono superati è proprio alla RAI. Non solo abbiamo un presidente donna, consigliere di amministrazione donna, ma nelle strutture operative giornalistiche, beh, le donne fanno la parte del leone. Per Stefano Lucchini è lo stesso messaggio. L'ENI ha una gran quantità di ricercatrici, di avvocati, di funzionari di altissimo livello che sono donne. Dunque, piano piano avanziamo anche noi, ma sentiamo una frase conclusiva proprio di Lella Golfo. È vero che oggi le porte sono più aperte alle donne, però c'è ancora molto molto da fare, e guarda che prima di questa legge la Banca d'Italia aveva fatto una ricerca e aveva stabilito, insomma, dati della Banca d'Italia, che per raggiungere la parità in cui siamo arrivati oggi al 17% in un anno dopo la legge ci avremmo impiegato ben 51 anni. Quindi, allora, a questo punto, ecco, viva, viva la legge. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, chiudiamo questa nostra serie sulle donne di questa settimana, due puntate, sperando che anche il contributo di America 24 sia servito a portare maggiore attenzione al tema. Vi lascio con questa bellissima canzone di Tori Amos che denuncia la pratica della mutilazione dei genitali. Tori Amos, Cornflake Girl. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is, you bet your life it is. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Grazie anche. E grazie anche a Mario Platero, a Fabio Cantadori in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, a tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Se volete contattarmi, protestare, dire la vostra, mi trovate su Twitter, Simone Spezia. Effetto giorno torna lunedì alle 13. Ci risentiamo tra un attimo col GR.